Che bel momento. Buonasera a tutti, buonasera. Voi siete degli eroi che siete qua seduti da quanto tempo? Da ieri addirittura, è passato così tanto tempo. Un saluto anche alle persone in fondo. Dalle 7 di sera? Avevi paura di non trovare posto per stasera? No, il traffico. Hai fatto bene, sei stato previdente. Tra 5 minuti iniziamo, quindi fate quello che stavate facendo prima. Buonasera. Sì, sarebbe anche sì, che ore sono? Le 10. Anche perché non vorrei far andare via le poche persone che sono sedute da un bel po', lui dalle 7 che è qua, per evitare il traffico. Dalle 7 di ieri, capito? Si è accampato qua. Quanta gente c'è fuori? Mi fai da vice, ma magari anche dicendo state pure fuori se non ve ne fotte un cazzo. Cioè, nel senso, fate quello che volete. So che tu sei in grado di catturare l'attenzione di tutti. Bene, è arrivato l'arrotino. Come sta? Dov'è il mio compare Valerio? Sta studiando. Sta studiando? Sì, no, so, ho avuto la lieta notizia. Va bene, no, ma qua sto parlando a vanvera per vedere che la gente che è seduta non se ne vada. Prima volta che venite? Sì, mi ricordo, ma lo chiedo. Sto cercando di... Dammi una mano, no, seconda. Va bene, non ve lo chiedo più. Allora come va? Come è stato ritornare qua? Beh, bellissimo. Perché siamo tornati, direte voi? Non avevate niente di meglio da fare stasera? Zero proprio, nessuna opzione. Non c'era Sanremo stasera. C'è Juve Ren, non so. Sarei stato a casa io a guardarla. Fate un po' voi, ma purtroppo devo essere qua a cercare di dirigere il traffico mentre stasera siamo in tantissimi, sono in tantissimi, sono tipo in 9-10, vedo un signore che timidamente prende posto, lei la conosco, prego si accomodi dove meglio crede, il divano è un posto ambito il divano, prima che te lo portino via. No, non è prenotato, c'è scritto contributo comici, perché noi abbiamo la vaga speranza che voi qua dentro mettiate delle monete. Per quei ragazzi che tutti i giovedì vengono qua con eroismo a cercare di farvi ridere, ma settimana scorsa c'era Sanremo, meglio così. Se ci fosse stato Sanremo sareste stati a casa stasera, onesti, non ci offendiamo. Sì? Sì, anche alcuni dei comici dicono sì. No, nessuno, non ci sono prenotazioni, siamo semplicemente semivuoti. Che è un motto di orgoglio, una cosa di orgoglio che abbiamo noi. Io e Valeria abbiamo fondato questa serata nel tentativo di farla fallire il prima possibile. Non pensavamo così presto. Sono mancato un paio di settimane, ho lasciato le redini a Valerio e il risultato, signori, ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi. Come va? Bella serata per provare un pezzo nuovo, tu sei sempre sicuro? Beh, mi piace il fatto che sei un ragazzo deciso. Accomodati dove preferisci, gira, fai. C'è qualcuno fuori, vuoi andare a dire con la tua innata verve di entrare? Con cautela, Romualdo. Fammi sentire come glielo dici. Intimorisci. Non si sente nemmeno. Sta parlando ma lo stanno menando, no? No, sta tornando. Non ha la faccia di chi ha ottenuto una vittoria. Dimmi com'è andata. Dovrebbero? Ma per quale motivo? Come Sanremo davvero? Ma puoi dosarli, la serata è lunga. Allora, stasera ci sarà, lo dico ai comici, molta confusione, più del solito. Non ci ricordiamo i nomi di chi si esibisce, quindi a un certo punto fate dei segni e verrete chiamati... No, tu tra i primi perché hai la metropolitana, giusto? Abbiamo anche altre esigenze. Bene, dammo davvero 2 minuti, non alzatevi, abbiate pazienza. Cercheremo di fare una serata breve per non tediarvi troppo. Stanno entrando tutti. Valerio, pezzo di merda! Ah, ma sei qua, stai solo fingendo, sali, sali! Io pensavo stessi No, lo so, ma richiamo, no, ma possiamo anche andare via. C'è il microfono. Non c'è il microfono? No, ce l'hai te. Beh, sei un professionista. Cosa stai bevendo di buono? Un gingerino? Un gingerino, cosa stai bevendo? Comunque, signori, io ci terrei a farvi fare un applauso al maestro che è presente in sala. Io sono il suo allievo prediletto. Fa culo. Walter Leonardi! Vuol dire qualcosa, maestro? No. Si esibisce stasera? No, ha detto... Cercava... Vuole bene il maestro. Sai che cercava semplicemente di ignorarti il maestro? Come quelle persone che conosci che non vuoi vedere da lontano, che abbassi lo sguardo, che fai così. Ma è tutto affetto. Ma certo che l'affetto non ricambiato del maestro. Si è sentito un'impennata della mia voce? No, hai qualcosa... Dobbiamo fare qualcosa. No, ma non è che dobbiamo. Dobbiamo. Racconta, fai delle robe tue, ma una roba veloce. Sei salito sul palco te. Il maestro cosa dice? Ha usato un termine tecnico, Darsena. Darsena? Larsen. Ah, l'effetto, ah, scusate, io sono sordo. Maestro. Hai una battuta? Hai una battuta sul Larsen, sull'effetto Larsen? No, guarda, io ti dico, non volevo rubarti. No, no, ma io sono qua. Questo è un matrimonio qui, si è venuti insieme. È un matrimonio. Si muore assieme, amico mio. Se vado all'inferno io, ti porto giù con me. Ci tocca. Hai capito? Ti porto giù con me. Ma tanto siamo già più, cioè più in basso di così possiamo far di più, possiamo far di più. Quanto è bello che alle nostre battute ridiamo solo io e te. Ma non sono neanche battute, quella è la cosa brutta, stiamo semplicemente parlando a vanvera. Però adesso, ridiamo, e adesso il pubblico no. Ma noi ci divertiamo così. Io ti dico, secondo me potevamo fare di meglio. Ma noi possiamo... Cioè, secondo me dopo l'ultima serata... Sai cos'è? Che l'ultima serata sei arrivato te a un certo punto. E infatti, mi hanno detto tutti, sai che la seconda parte è stata meglio? È rimasta. Che incredibile coincidenza. E non ho fatto niente. Niente, semplicemente dicevo tocca a te, niente di più. Ci vuole così tanto poco per rovinare una cosa bella. Stavamo riuscendo nel rovinare l'exalgeno. Ma secondo me stasera è la sera giusta. Sì. Guarda qui, loro. Ma facciamo tutto lo spettacolo così, io e te che dialoghiamo. Sì, esattamente. Così hai fatto ieri. No, no, adesso facciamo entrare i comici. Non c'è una scaletta. Quindi sta un po' a sentimento chi chiamare. Questa... Ma hai detto che siamo in tanti stasera. Siamo in tanti, sì. Quindi, comici, cerchiamo di non raccontare la rava, la fava. Chiamiamo Nemo per primo, che mi sta sul cazzo. Se la sente? Nemo! Signori, sarà difficilissima per lui. Quindi, davvero, dategli calore. È un eroe. Ciao, Exalge, fatevi sentire! Così, dai, mi piace che ci sono alcuni che sono entusiasti, sono fighissimi, volevano venire, cioè proprio e poi ci sono quelli trascinati che hanno fatto, sì dai, cominciamo, siamo qui dalle 9, sono le 10 e un quarto, abbiamo iniziato adesso, bene, ciao, come state, tutto bene? Si risponde sì a questa domanda, non rispondete no, se no è un disastro, mi raccomando. Voglio fare una roba prima di cominciare così perché... La faccio sempre in realtà, da quando l'ho fatta la prima volta, adesso vi racconto sta cagata, prima e poi comincio, faccio il pezzo veramente. Io dico una roba, voi la farete perché siete delle brave persone, siete bravissimi, voi la ripeterete perché siete persone normali. La prima volta che l'ho fatto, questa cosa non è accaduta, prima la facciamo, mi raccomando rispondete, se no faccio una figura di me, ok? E-o! Ari, ari, ari, oh! Iririri. Scurlibu, scurlibu, scurliburliburlibu. C'è sempre un po' di difficoltà sull'ultimo. Allora, perché faccio questa roba? Primo perché io lo faccio perché sono molto fan di Freddie Mercury. E poi perché la prima... Allora, io stasera litighiamo, io te lo dico. Perché la prima volta che l'ho fatta questa cosa di Freddie Mercury, praticamente... Era una delle prime volte che salivo sul palco in assoluto in vita mia. Ero giù in Basilicata, ero felicissimo. C'erano 1500 persone davanti, per farvi capire. Un villaggio turistico intero, non sto scherzando. Salgo sul palco, comincio il pezzo e faccio... E-o! Il silenzio assoluto. Giuro, c'era solo uno in prima fila che si è alzato e ha fatto... E-o! Cazzo, no, niente. Freddie Mercury, grandissimo, niente. Vabbè, quindi questa roba la faccio per esorcizzare tutta sta roba. Ciao, benvenuti. Faccio una domanda prima di cominciare. Chi è che ha paura di volare? In sala qualcuno che ha tu hai paura di volare tantissimo? Solo lei? Tu pure, vabbè? Chi? Tu pure, va bene? Gli altri tutti... Pezzi di me. Veramente, tutto bene. Qualcuno che ha un amico che ha paura di volare? Sì, dai. Amici che hanno paura di volare, va bene? Però fa piacere che comunque quelli che hanno paura di volare non vengono mai, ma mandano gli amici. Questo, siamo contenti, bene. No, perché lo chiedo? Perché io ho un terrore atavico, assoluto di volare, proprio terribile. La cosa però che odio di più della mia paura di volare sono le frasi che mi dicono tutti quelli, voi che siete gli amici di quelli che hanno paura di volare, per chi ha paura di volare, no? Allora, ci sono due tipi di reazioni. La prima è che c'è quello che ti vuole fare il coglione, che dice, minchia, oh, minchia, pensa se oh, adesso saliamo sull'aereo, minchia, prende fuoco il motore, via, minchia, l'ala che si spezza. Siamo sullo stesso aereo. Se ci schiantiamo, muori pure tu. Quindi quelli lì sono quelli che non ti mettono ansia, no? Quelli che ti mettono ansia sono gli stronzi, come un mio amico. Prendo questo per sedermi, che mi frega. Faccio finta che sia casa mia questa. Un mio amico che... abbiamo preso un volo insieme, lui è un pezzo di merda incredibile, lui si siede, sa che io ho paurissima di volare, si siede, siamo seduti, tranquilli, sull'aereo così, e lui ogni tanto, che ne so, sta usando il cellulare così, legge, guarda video, film, cose, e ogni tanto fa... ai ai ai ai ai ai ai ai ai. E si rimette a guardare il cellulare. Aspetta, aspetta, senti, senti, senti. Questo è un rumorino, Questo rumorino, niki niki niki, questo è grave, eh? E fa tutte ste robe qua. Come mai la hostess corre su e giù? Come mai la hostess va fino là? Tutto così, fa il bastardo, no? E poi ci sono gli altri invece, che sono quelli, tra virgolette, più normali. Vabbè, questo me lo metto a posto. Quelli, tra virgolette, più normali, che invece cercano di dirti delle frasi per farti star meglio. Ma non funziona tanto bene. C'è tipo quella roba, ma non è che per caso vuoi... il posto vicino al finestrino, così guardi fuori e ti rilassi. Certo, non vedo l'ora di guardare fuori dal finestrino e vedere che adesso casa mia è un puntino della settimana enigmistica. Non vedo l'ora. Oppure ti dicono quelle classiche frasi, queste le sapete tutti, voglio sapere, l'aereo è più sicuro di che cosa? Della macchina. L'aereo è più sicuro della macchina. Ci sono molti più incidenti in macchina che in aereo. Non ho la macchina. Non guido! Oppure l'altra, che è molto simile, l'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. È una cazzata! Io ho fatto una ricerca, non sto scherzando, perché io non ho fatto una ricerca scientifica, perché io mi cago addosso, ma in maniera scientifica. Ed è il quarto... mezzo di trasporto più sicuro al mondo, il quarto, giuro, al terzo posto c'è il triciclo, con 12 incidenti all'anno, che sono tanti per essere un triciclo, 12 incidenti all'anno mortali, cazzarola, cioè, tantissimi, al secondo posto c'è il montascale, che è quello per far salire gli anziani, te lo giuro, al secondo posto c'è il montascale. Ma soprattutto, signori, al primo posto più sicuro al mondo, mezzo più sicuro al mondo, è la ciclette. Zero incidenti all'anno in ciclette. È lunga, però si può fare. E poi l'altra frase che mi dicono sempre, che è quella che mi sta più qua in assoluto, proprio una roba che non la tollero veramente, è che mi dicono che, guarda che quelli che guidano l'aereo sono piloti professionisti. Sono esperti di volo. No. Allora, sono gente che ha imparato a guidare un siluro di metallo che pesa 5 miliardi. Non so quanto pesa un aereo? 7-8 kg, 7-8 kg, lo puoi portare così a braccio. Non lo so quanto pesa un aereo con un joystick della PlayStation. Questo hanno imparato. Possiamo concordare tutti che le anatre sono esperti di volo. Eh? Fanno quello da quando nascono a quando muoiono. Quelli sono esperti di volo. E poi l'altra cosa che mi dà fastidio veramente di sta frase è che è subito attaccata a un'altra roba, che ti dicono, beh, ma loro, guarda che per pilotare l'aereo bisogna passare due esami, eh? Uno teorico e uno pratico. Non mi fa stare meglio. Chi è che di voi ha fatto l'università? Per alzata di mano? Beni, mica tutti, figata. Porca troia, mi sento un coglione, io che non sono laureato. Io ho fatto pochissima università, 2 anni, poi ho lasciato, perché giustamente. Però degli esami li ho passati. E non mi fa stare meglio sapere che hanno fatto un esame teorico, perché io mi ricordo come si preparano di solito gli esami. No? Quindi mi immagino questo pilota che ha il libro davanti, prepara tutto l'esame e dice questo lo salto tanto non me lo chiede, questo l'ha chiesto lo scorso appello, quindi sicuro non lo richiede, il carrello di atterraggio, dai, carrello di atterraggio, facile, lo possiamo studiare? Troppo facile. Quindi sicuro non me lo chiede, e va all'esame e c'è l'esaminatore, e magari l'esaminatore quel giorno gli chiede il portellone, no? E lui lo sa il portellone, lo sa. Se chiedo a chiunque come funziona il portellone di un aereo, no? Apri, chiudi, maniglia, non è difficile. E l'esaminatore dice, minchia, questo sapeva perfino il portellone, che è una righina in fondo al testo, e lo promuovono. Però non si scappa, c'è? Cosa c'è? La pratica, se non lo sai guidare l'aereo non te lo fanno guidare. Però, mettiamo che durante i voli di questa persona, durante il volo di esame, vada tutto bene. Non ci sono imprevisti, non succede niente, decollo, atterraggio, tutto bene. Mettiamo che sia, perché è anche un mezzo piuttosto sicuro, come abbiamo detto, però è un mezzo molto sicuro l'aereo, quindi diciamo che anche i 10, 15, 20 voli successivi, tutto bene, non succede niente, va benissimo, decollo, atterraggio, tutto a posto. Poi sale sull'aereo che prendo io, e mentre è lì seduto, che guida il suo siluro di metallo, tranquillo, a milioni di metri, quanti sono, non lo so, a un certo punto alla sua sinistra, mentre è seduto, plip, plip, plip, si accende una spia rossa sul display, tastini, cose, eccetera. E quindi vedi il pilota che fa tutto sereno, se la ride e poi fa... Fabrizio? Fabrizio, perché giustamente i più attenti dicono che di fianco c'è il copilota, perché se il pilota è un coglione ci pensa il copilota. Non so se lo sapete, ma nel 78% 78% dei casi, 78, il copilota è il migliore amico del pilota. Questo significa che l'esame l'hanno preparato insieme. E se quello è diventato copilota e non il pilota, vuol dire che a un certo punto c'è stata una telefonata dal copilota al pilota che ha detto tipo, oh fra, senti, ma il capitolo sul decollo non era da preparare, vero? E ha passato l'esame anche lui. Questo significa che il dialogo è questo. C'è la spia rossa che si accende e c'è il copilota. Lui fa, Fabrizio? Cos'è quella... Non ne ho la minima, sono proprio zero. Come non sai? Guarda, a me hanno chiesto le uscite di sicurezza, io non... Cosa facciamo? Oddio, non lo so, oddio, cosa facciamo? Beh, intanto le maschere dell'ossigeno, ah giusto, non tu, cretino, dietro, ah già, è vero, e poi devi fare l'annuncio, ah giusto, brace, era brace, ma sul libro c'era scritto brace, oddio, e cosa facciamo? Mamma mia, sta cadendo l'aereo! Ma poi tu cosa stai facendo con queste braccia? E io una cosa so, fammela fare! E l'aereo... Quindi, per farla molto breve, io, la prossima volta che voglio andare da qualche parte, mi metto un bel video in televisione della Thailandia, e me la faccio tutta in cicletta. Grazie. Valerio Iro, Andrea Padenti, forza! Dove sono? Dov'è quello scappato di casa? Tiè. Guarda, non sta bene purtroppo. Nemo! Non sta bene. Valerio non sta bene. Il mio allievo! Il suo allievo! Di fronte al mio maestro! Quindi è come se anche... È come se lui fosse suo allievo in un certo senso. È matematica questa, non è che l'abbiamo inventata noi. Maestro, mi lo riconosci come, lo riconosci come allievo, maestro? Assolutamente sì. Domani... È il tuo preferito? No, perché sono io. Valerio? Ci sta lavorando. Il maestro intrattiene anche seduto su una poltrona. Non ironizzare sul maestro, non ti permettere. Io sto imparando, io imparo per osmosi. Tu sei una spugna, no, vero? Io sì. Nel senso che... Battute proprio, che livello. Quanto hai di febbre? Però hai capito che... Quanto hai di febbre? Dillo al pubblico. Beh, 38. Madonna, davvero, addirittura? No, non lo so, ho provato, sto male, vabbè, sono venuto qua per appestarvi, cazzo vostro. E questa potrebbe essere la cosa più divertente che direi in tutta la sera. Speriamo di morire tutti stasera. Ma che bello. Chi? Era stata Speriamo che tu muoia. Ma io morirò sicuro. Stasera? Quanti? Secondo me te mi segui. No. Signori, sta diventando una serata molto bella. C'erano tutti i presupposti. E allora, con questo clima così di goliardia, perché non chiamare la prima e non unica donna di stasera? Perché poi alla metropolitana, e quindi noi la facciamo, se pensa che la metropolitana sia un posto più sicuro che questo locale, noi la facciamo salire. Signore e signori, Silvia Conti! Grazie, la prima a morire perché sto usando il microfono di Airo. Adesso sono molto più sicura che metropolitana. Un pezzo profondo, intimista, che riguarda la mia storia. Spero che abbiate questa ora e mezza da dedicarmi. Lo so che a vedermi così incredibilmente elegante, ben truccata, ben conciata, farete fatica a crederlo, ma ai tempi della scuola io non ero esattamente la reginetta della classe. Indossavo sempre una di quelle tute in acetato che andavano tanto di moda all'epoca, era nera e arancione, tipo Adidas ma tarocca, e aveva la felpa troppo grande e i pantaloni troppo corti, che mi aveva permesso di vincere il titolo C'hai l'acqua in casa, che veniva assegnato nei corridoi della scuola. E portavo i capelli lunghi fino al culo, pettinati con una bella riga a mezzo, e questi mi avevano permesso di vincere anche il titolo Maria Maddalena Languida, che veniva assegnato sul pullman. E non dimentichiamo l'apparecchio ai denti, i brufoli, i punti neri, gli occhiali con la montatura verde muschio, le lenti spesse come fondi di bicchieri e uno splendido monociglio che incorniciava il mio volto. Diciamo pure che ero un pochino sfigata per i canoni estetici dei crudeli anni 90. Anni in cui dominavano modelli femminili come Brenda Walsh e Kelly Taylor di Beverly Hills 90-210. Io, guardando quel telefilm, potevo al massimo identificarmi con Andrea, la secchiona, occhialuta ed ebrea, che a differenza delle altre teneva sempre l'ombelico ben coperto, forse perché oltre ad essere secchiona, occhialuta ed ebrea era anche chiatta. Ma l'identificazione svaniva nel momento in cui, a un certo punto del telefilm, anche Andrea riusciva a limonare. Io no. Era il 1994, avevo 12 anni e la mia lingua avrebbe conosciuto la bavosa lumacosità di due lingue adolescenti che si annodano solo molti anni più tardi. Era l'estate del 1994, essere precisi, quando le mie amiche, le stesse che mi avevano spiegato il significato del verbo limonare e che mi avevano suggerito di esercitarmi sul palmo della mano anziché contro il poster di Brandon Walsh appeso al muro, quando le mie amiche mi registrarono la prima musicassetta. sulle canzoni contenute in quella prima musicassetta io plasmai i miei primi desideri erotici e l'immagine della donna che avrei voluto diventare. Iniziai a pensare che cosa avrei dovuto dire, come mi sarei dovuta comportare nelle relazioni con l'ancora sconosciuto altro sesso. Era una cassetta degli 883. E questo parzialmente spiega perché dovetti attendere ancora anni prima di riuscire a limonare. La prima canzone era Sei un mito, inizia con tappetini nuovi, arbre magique, deodorante appena preso che fa molto chic. Erano i primi due versi a cui all'epoca io non davo grande importanza, ma che oggi mi provocano uno shock olfattivo ogni volta che li sento, perché non riesco a pensare a un mix peggiore di quello tra un deodorante per auto appena comprato, un ventenne pavese arrapato che si è cosparso di deodorante a secchiate che si mescolano nell'abitacolo di una macchina, quasi sicuramente un'utilitaria, anzi sicuramente una cazzo di Panda vecchio modello ereditata dal nonno che la usava per trasportare il letame nella campagna pavese. Nella canzone i due vanno al bar perché il pezzente Pezzali, nomen omen, la tipa non la porta neanche fuori a cena. Ma a me a 12 anni sarebbe andato benissimo andare al bar pur di riuscire a limonare. Quello su cui concentravo particolarmente la mia attenzione era nella seconda parte della canzone, quando a un certo punto lei gli dice «Dai, vieni su da me che intanto non ci sono i miei» e lui si ferma a prendere una bottiglia perché vuole festeggiare questa figata. Il mio problema di dodicenne con il monociglio e la tuta in acetato era che i miei genitori non si schiodavano mai da casa alla sera, soprattutto il sabato quando Rai 2 trasmetteva degli straordinari thriller per la TV. E mi ponevo quindi il problema di che cosa avrei dovuto fare nell'occasione di un sabato sera in cui io avessi avuto la possibilità di invitare a casa un giovane con cui limonare. Ogni volta che mi capitava di restare a casa da sola anche solo per 5 minuti io collaudavo tutte le possibili location dove stappare la bottiglia del mio ospite. Quindi testavo il mio lettino di infanzia con i suoi peluche rosa, il copriletto rosa. Forse era meglio andare sul letto matrimoniale senza alcun rispetto per il giaciglio che mi aveva generata, o forse era meglio andare sul divano. Mi chiedevo se il mio divano fosse abbastanza comodo per ospitare un amplesso e soprattutto come diavolo si svolgesse un amplesso, perché Pornhub e i tutorial non erano ancora stati inventati e cioè non pubblicava mai dei fotoromanzi sufficientemente esplicativi. Quello che però mi era chiaro è che una volta raggiunto il mio obiettivo, cioè la bottiglia del mio ospite, mi sarei dovuta comportare come la donna della canzone di Pezzali. Io e il mio ospite saremmo dovuti essere un ragazzo e una ragazza senza paranoie, senza dirci io ti amo, io ti sposerei e avere voglia di stare bene tra noi anche se soltanto per una sera appena. Era quindi evidente che mi sarebbe bastato darla via una volta sola, ma senza rompere i coglioni, e forse sarei riuscita a diventare il mito dell'intero quartiere o almeno della sala giochi Jolly Blue, dove il mio ospite al suo ritorno avrebbe raccontato quasi un porno. Nella stessa cassetta c'era un'altra canzone, Lasciati toccare, da cui ricevetti dei preziosi consigli di stile. Secondo le indicazioni della canzone mi servivano due cose: un vestitino nero che mi avvolgesse stretto, così stretto che si vedesse quasi tutto, e un condizionatore che mi respirasse vicino in modo che il freddo potesse far apparire qualcosa sul mio seno. Una volta comprato il vestitino nero, che d'altra parte aveva anche Brenda Walsh, e una volta trovata la bocchetta di un condizionatore sotto cui collocarmi spontaneamente, non avrei dovuto fare altro che mettere in atto la gestualità della donna desiderata dal Pezzali. Avrei dovuto accarezzare la mia gonna con la mano. In assenza del vestitino nero che comunque mia madre non mi comprava, e anche del condizionatore, perché tutto ciò si svolge nell'Italia degli anni 90, al limite in qualche bar c'era qualche pala al soffitto che girava. Io decisi comunque di provare questa interessante gestualità. Io non capivo perché nessun ragazzo mi si avvicinasse, conquistato da un movimento tanto sensuale, e soprattutto ancora ignoravo di quanto fosse facilmente infiammabile l'acetato se sottoposto a ripetuti sfregamenti. La cassetta si chiudeva con Telatiri, opera secondo me sottovalutata del primissimo Pezzali. La canzone ritrae alla perfezione il profilo della figa di legno dell'epoca della campagna pavese, e una ragazza sveglia come ero io a 12 anni non poteva non coglierne la portata educativa, perché quella canzone elencava tutti i comportamenti che non avrei dovuto mettere in pratica se avessi voluto attirare e tenermi un uomo. Nell'ordine: mai parlare di oroscopi, mai ballare in un modo che non c'entra niente, e soprattutto mai, mai, mai arrapare la gente senza poi concedersi. Quella canzone mi ha fatto capire che un impegno, una promessa, è stata la guida, la voce ispiratrice della seconda parte della mia giovinezza, e mi ha portato in quella fase, senza apparecchio ai denti né tuta in acetato, a evadere qualsiasi, ma proprio qualsiasi richiesta di accoppiamento che avessi ricevuto. D'altronde, gli unici tre modelli femminili teorizzati dal Pezzali ed elencati in rotta per casa di Dio sono fidanzata, moglie e troia. Considerato che le prime due sono delle cagacazzo cornute, non so voi al mio posto a 12 anni quale avreste scelto tra i tre come modello femminile a cui tendere. Quindi, se sono cresciuta un po' troia, la colpa è di Pezzali, non mia. Grazie. Silvia Conti. Bene, a saperlo la mettevo dopo, invece, cazzo, me la sono giocata subito così, in maniera molto, molto superficiale. Beh, purtroppo non si può, signora, siamo lunghi qua stasera, a saperlo. Vabbè, andiamo oltre, non c'è Valerio perché non sta bene, quindi è sempre più malato, ma tanto non è che si vede molto la differenza, quindi anche forse è meglio così. E allora, con piacere, che spero lui lo sappia... E adesso? No, no, niente, è successo niente, sto scherzando, ho saltato un bicchiere, no, scusate. No, è cose taralli. E adesso mangi vetro e taralli. Che bello, dai, sali su, Alberto Vitale, facciamo un bel applauso. Non ci esibi... Ah, sì, hai ragione, sono io che sono completamente andato, scusami. Aspettiamo, vediamo... È un momento sanremese? Sì. Allora, intanto, prima del pezzo, posso dirvi? Questa ci ha messo quei 3-4 secondi in più, ma è stata colta. Però lui è un tuo amico, quindi questa cosa fa tristezza. Noi staremo in silenzio finché non ha finito di raccogliere. Sì, sì, noi... Non sei... Sì, vi ho visti prima. No, è vero, lo so, sto scherzando, stavo dicendo cazzate. Vabbè, cominciamo. Aspetta che io estraggo il mio ma. Benvenuti alla storia siamo noi. L'11 settembre 2001 due aerei si schiantano contro le torri gemelle di New York, causando la morte di oltre 2000 persone, gran parte delle quali lavorava in quei grattacieli. Questa invece è la storia di un sopravvissuto. Michael Cicciotti è un italo-americano che lavora al 34esimo piano del World Trade Center. È un uomo di circa 40 anni. Fiero delle sue origini, comincia infatti sempre la sua giornata con un buon caffè. Ristretto. Ascolta musica classica. Ridi, pagliaccio. E va sempre in giro con un po' di vera pasta italiana che è così difficile da trovare a New York. L'ho dimenticata. Questa che vi raccontiamo è la sua storia. Quella mattina Michael sarebbe dovuto essere al lavoro e se così fosse stato, oggi il suo nome sarebbe tristemente presente tra quello delle vittime. Invece, per una serie incredibile di eventi, egli si è salvato. E la cosa eccezionale è che se anche uno solo di essi non fosse avvenuto, Michael sarebbe morto. Ma torniamo insieme a quella mattina. Ore 7. Michael si sveglia, si veste e fa colazione. È puntualissimo, come ogni mattina. Ma quel giorno succede il primo imprevisto. Sua moglie, cominciando a pulire casa, negli angoli più reconditi della casa, scopre la collezione di DVD porno di Michael. Ti posso spiegare tutto, cara. La madre 89enne di Michael, che vive in casa con loro, vede i DVD. Ti posso spiegare tutto, mamma. La vicina di casa 16enne, casta e sexy, venuta in casa a chiedere dei biscotti, vede i DVD. Ti posso spiegare tutto io se vuoi, piccolina. Michael viene picchiato dalla moglie, dalla mamma e dalla mamma della vicina. Questo gli farà perdere 10 minuti. Uscito di casa, pesta una cacca. Ma che sfiga. Pesta un cane. Vabbè signora, ma anche lei andare in giro con un chihuahua. Pesta una signora. Vabbè signora, ma anche lei andare in giro con sta cazzo di faccia. Tutto questo gli farà perdere altri 15 minuti. Prima di andare in ufficio, si ferma in un takeaway iraniano per ordinare un falafel. Perché sì, italo-americano orgoglioso delle sue origini, ma è anche un po' stronzo. Il falafel fa effetto quasi immediato. Michael viene colto da una colite terribile. Oh, che dolore! Per fortuna passa subito. Adesso sto meglio. Poi torna. Oh, che dolore! Poi passa. Adesso sto meglio. Poi torna. Oh, che dolore! Poi passa. Adesso sto meglio. Poi torna. Oh, che dolore! Poi passa. Adesso sto meglio. Poi torna. Vabbè, ma qui faccio prima a cagarmi addosso e andare a casa. Tutto questo gli farà perdere altri 20 minuti. E quando finalmente arriva nei pressi del suo ufficio, in ritardo ma senza preoccuparsene, facendo così onore alle sue origini italiche, sono le 10:15 e il primo aereo si schianta sulla prima torre, proprio in corrispondenza del suo ufficio. Ed è fuoco, morte e distruzione. E allora Michael ripensa a tutto quanto accadutogli quella mattina e l'incredibile sequenza di eventi accaduta che gli ha appena salvato la vita. Ed ha un solo italico pensiero. E vai, meno male che oggi non si lavora. Alla prossima puntata. Alberto Vitale. E ora chiamo sul palco José Antonio Dante. Andiamo velocissimi che siamo lunghissimi. Non lo sapeva, lo scopre adesso. Se c'è, José. È uscito, non esce mai, è sempre qua dentro. Romualdo, vai, è il tuo momento. Signori, questo è il momento dove di solito la gente tende a uscire. Perché è un momento... No, voi capite male, questo è un momento bello, ma è un momento che bisogna ascoltare e alle volte ci vuole volontà per ascoltare. E questo ragazzo stasera ci racconterà un pezzo... Vieni qua, presentati. Allora. Con il tuo solito brio. Buonasera a tutti, come avete sentito mi chiamo Romualdo, ho 26 anni, sono single e quindi, insomma... È passato il 14 febbraio. Che presentazione lunga comunque. Vai, io ogni tanto ti dico delle cose. Vai. Finalmente ce lo siamo levati dalle palle. Ci sta, vedi? La pensano tutti come te. Sì. Ha rotto il cazzo San Valentino. Ecco, specialmente da single, insomma... Mi sono anche stufato di guardare episodi di Legends of Tomorrow, quindi, insomma... ci siamo levati dal cazzo anche Sanremo con grande gioia di Silvia, meno male che non sta sentendo, lei adora Sanremo. Meno male, sì. Sì. Quindi ce lo siamo levati dal cazzo, e allora l'avete visto tutti, però, vero? C'è qualcuno che non ha visto? C'è qualcuno che si è perso il bacio tra Rosa Chemical e Fedez? Aia. Io scendo perché adesso tratti un tema scomodo, io mi faccio allora, un passo. Io ve lo dico, questo pezzo l'ho finito di scrivere stamattina e oggi ho avuto una festa di laurea, quindi non l'ho nemmeno provato, quindi sappiate che è in sperimentazione. Che bella notizia. Proprio sai quella cosa che dici: ah, stasera in una serata così avevo proprio voglia di questo. Esatto. Tu sei un eroe. Tu cammini cazzo sulla corda tesa senza reti. Esatto. Reti sotto. Se qualche femminista volesse uccidermi, è la sera giusta, secondo me. Sì. Beh, insomma, avete tutti visto quel bacio. I vostri figli, eventualmente, se ne avete, l'hanno visto. O le avete per caso messi da parte, perché insomma adesso nel caso l'avessero visto probabilmente sono ad inculare i propri compagni di classe, magari truccati come il Joker, insomma. Quindi, almeno questo secondo me è quello che penserebbe il nostro partito al governo, Fratelli d'Italia, sicuramente. Questa è l'influenza della propaganda gender fluid, ma insomma, sì, scusate, ho un po' mi inceppo ogni tanto, ve l'ho detto, è un pezzo in lavorazione. Aspettate che... Ok. Battuta terribile. Dunque, invece, a differenza di quello che possa credere, diciamo, il partito del nostro presidente Giorgia Meloni, insomma, ha creato un po' di casino anche al quartier generale, diciamo, della propaganda gender fluid, che direi che è Instagram, insomma, la parte femminista e LGBTQIA plus, insomma, si è creato un bel polverone e si è spaccato in due. È una cosa che probabilmente non si aspetterebbe nessuno, ma... Che bello, suscito risate anche quando non sto facendo battute, è meraviglioso tutto questo. Un applauso, grazie, dai, sciogliamo questa tensione. Grazie. E insomma, al quartier generale della propaganda gender fluid si è creato un bel casino e ci sono state diverse spaccature, che potrebbe essere una cosa sorprendente, ma stiamo parlando di qualcosa di sinistra, perché insomma il femminismo direi che è un movimento di sinistra, quindi possiamo dire che è una cosa scontata, no? Come tutte le cose di sinistra alla fine finiscono per spaccarsi. Più partiti. Dai. Vorrei rispondere, ma non so cosa. Tu lo sai bene. Mercoledì, ha senso. Adams, chiudo la ciabatta. Fai vedere quello che Baiero ti ha insegnato. Dunque, continuando, cosa stavo dicendo? Sì. Insomma, si è spaccato il PD, no, volevo dire il femminismo, si è spaccato in più parti. Perché, insomma, il gesto di Rosa Chemical, preso così di per sé, è un gesto dirompente, insomma, facciamo il dito medio ai bigotti, facciamo un dito medio all'establishment, e insomma... Fanculo il patriarcato. Bello, no? Solo che se Fedez non era consenziente è un attimino problematico. Insomma, il femminismo si batte per la consensualità totale e di un atto romantico o sessuale. Quindi deve essersi consenso... non implicito, consenso esplicito. Quindi, insomma, si è creato qualche discorso, anche perché se non fosse stato consensuale quel bacio, Fedez potrebbe anche denunciare Rosa Chemical, quindi, perché è una vera e propria violenza sessuale. Quindi, insomma, non è una cosa così semplice, e ci sono state diverse femministe che l'hanno sottolineato. E poi invece c'è stato la frangia del femminismo intersezionale antispecista vegano. Ora io vorrei leggervi un pezzo di un post, cioè anzi un post fatto da una pagina che si occupa di questo in modo anche molto serio, e che è stato condiviso da diverse femministe, quindi nel senso ha ricevuto diversi consensi nel movimento. Se tutte le persone che stanno dedicando stories e post sulla presunta non consensualità del bacio tra Rosa e Fedez a Sanremo dedicassero anche solo una stories alla non consensualità quotidiana degli animali a divenire il nostro cibo, il mondo sarebbe un posto migliore. Signori, possiamo chiudere l'internet. Abbiamo trovato la fonte del male del mondo. Eh? Supersonico, te la sei cercata. Adesso loro ti chiederanno se questa storia è vera. Tu dovrai dare spiegazioni. Posso mostrare il post? Devi dare spiegazioni. Ti assumi la responsabilità delle cose che hai detto, qua, amico. Ricondiviso da Alice in Wonderland. Messo mi piace da Federica Rippi. Quindi... Chi cazzo sono Alice in Wonderland e Federica Rippi? Io ho 40 anni, magari sono vecchio io. Perdoni, ma chi cazzo è Federica Rippi? Ma come? Non hai sentito parlare del programma su Sky di Giorgia Soleri e Federica Rippi? Ma io vado a lavorare durante il giorno. Non ho tempo di star dietro a Giorgia Soleri e quello che hai, le sue... Ma giustamente io non ho un cazzo da fare tutto il giorno e quindi seguo queste cose, no? Perché stiamo litigando? Non lo so, colpa tua. No, scusami, mi sono un attimo con la Federica, no. Cazzi, come cazzo si chiama, mi sono un po' innervosito, perdonami. Quando nel vuoi senso... vedi tu, no, comunque si è un po' perso il filo, quindi secondo me... No, insomma, abbiamo capito quali sono i mali del mondo e quindi a voi dell'Exalge, scusate. Bravo. Signori, chiedo... Con questo piglio da conquistatore. Chiedo un attimo al personale dell'Exalge un attimo di attenzione. Ahia, ragazzi, qualcuno? Si arrabbia due volte l'anno. Today. Allora, cioè... is the day. Allora, voi che servite il vostro tagliere di salumi... No, stai... sta già fatto... Cosa stai... Dove vuoi andare a parare? Avete chiesto al maiale che è stato macellato se era consenziente quando è stato ucciso? Mostri? Allora... Però ne vorrei ordinare uno per dopo, che ho una fame della miseria nel caso. Mettetelo in coda per gli ordini. Bravo, guarda, cosa devo dirti io? Sì. Ho le lacrime, sto piangendo. C'è un diesel, ma poi vedi che mi arrivi. Sì. E quindi... La vita sì, è dura, amico. Scusate. Domani c'è chi va a lavorare. Lo so. Federica Cazzi ci avrà i suoi cazzi. Non è giornata. Ti guarda. Sì, scusatemi. No, ma figurati. Lo so, il pezzo è nuovo. Vuoi tagliarti le unghie? No. Devo guardare gli appunti. Perché? Cazzo. Che ho perso il filo. Cosa ti dici una volta? Nel momento in cui ridono tantissimo, io me ne batterei anche il cazzo del pezzo. Allora. Arrivati a un certo punto, non so come dire. Il tuo ampiamente allora. Fatto, Allora, sto per morire, guarda. Funziona, quindi. Sto male. Allora, quindi se seguiamo, diciamo. C'è dentro un biglietto del tram, cosa hai guardato? È una roba. Ho guardato la foto non al posto, volevo dire al documento, la foto del documento Word che ho scritto oggi. E quindi. Niente, possiamo dire quindi che seguendo diciamo questo post e questa frangia femminista dovremmo uccidere. Sembra preparata questa cosa. Dovremmo uccidere ogni animale carnivoro e onnivoro perché insomma uccidono altri animali. Quindi anche le povere orche, per esempio le orche pescitariane nei mari del nord che ammazzano le foche. Solo per divertimento dovremmo ucciderne, giustamente. E dovremmo fare un po' come i panda. Non so se lo sapete, no. I panda hanno uno stomaco, diciamo, da carnivoro. Non sono adatti per mangiare le piante. ma sono troppo pigri e quindi si nutrono solo di bambù. E quindi noi dovremmo fare come i panda e possibilmente estinguerci. Sì. Buttati, fai stage diving. Sei stato un eroe, Romualdo. Io... Bene. Adesso devi andare a fare col maestro. Grazie. Il maestro vuole il tuo bacio. Il maestro non verrà mai più. Mai. Che microfono è? Quello di... Quello là sarebbe Valerio, temo, no? No, forse era... No, era quello il microfono di Valerio. Parlo. Quindi... Il disinfettante, purtroppo è andata così. Niente, io direi che... Al post è tutto chiaro, secondo te? Allora, no, non ripeterò quello che ha fatto Rosa Chemical, perché ho già delle denunce sul mio conto, non ne voglio altre. Non avrei detto mai, sai, di che genere? Ovviamente molestia. Ma stai scherzando? No, ovviamente sto scherzando. Beh, ma sai che uno... maniera spannometrica ci sono andato vicino, immaginavo. Adesso però basta, perché hai fatto tutto, puoi solo che fare uno spogliarello, ma lo teniamo per il prossimo giovedì. Prossimo ma giovedì, ci pensi anche? Prossimo giovedì elicottero sul palco con te, si può... vai. Sì, il portiere sono io. Allora, chi me lo fa fare venire qua a me? Sto a casa, guardavo la Juve, vabbè. José Antonio Dante, che prima non so dove fosse, non c'è mai però sto ragazzo, amico mio, ormai te la tiri, sono qui, prego, stasera vi vedo svogliati tutti, sto scherzando, come stai? Microfono, andiamo a urlare un po', ravviviamo la gente, che qui c'è rischiato il colpo. Sì, ho già in mente le mie quattro cazzate da dire, le solite freddure, occhi sono più carico, l'altra volta ho fatto un po' schifo. Vabbè, ma non ti buttare giù così. Stasera farai come, secondo te? Come andrà? Spero che vada meglio dell'altra volta, perché seriamente... Ah, dici che era talmente male l'altra volta? No, che l'altra volta ero un po' spento, non so perché. Ero un po' impreparato. Hai studiato adesso? Sì, so già che cazzata dire dopo le freddure. Perfetto. Vuoi iniziare con delle freddure? Vuoi contestualizzare un minimo? No, comincio con le freddure. Sì, sì, ma proprio così, a sfregio, senza un minimo preambolo... Sì. Sì. Ragazzi, qui voi casa vostra. Sì, oggi comincio diretto. Ma oggi vi sentite tutti. Quello arriva, sì. Oggi ho scritto il poeta e poi fai pezzi che manco letto. Vado. Tu non fai preamboli, va bene. Signori, attenzione, dadaismo. Allora, ci sono due ladri al bar e uno chiede all'altro: prendiamo qualcosa? Sì, a chi? Me la puoi rifare? Magari non l'avete capita? No, però rifarla scandendo di più, recitandola di più, perché magari... Sono due ladri al bar e uno chiede all'altro: prendiamo qualcosa? E l'altro risponde: va bene, a chi? Come dire che vogliono derubare qualcuno. A chi? Nel senso, chi derubiamo? Sì. Grande. In due, in 14. Bene, si parte giustamente piano. Sì. Seconda sarà chiaramente... Le altre due sono nuove. Non erano quattro in tutto? No, due nuove, poi il cavallo di battaglia. Ah, scusa. Stupido io, il cavallo di battaglia si tiene alla fine. Sì, allora, c'è una coppia che sta litigando e lei dice: me ne vado col primo che passa. Cosa fai se me ne vado col primo che passa? Cosa fai? E lui risponde: avviso il secondo, così può tirare un sospiro di sollievo. Così, proprio... No. Perché cioè, la frase a metà è un po' lunga per arrivare dove vuoi arrivare. Così. No, puoi anche cambiarle, non è che è così, è scolpito. Devo spiegare anche questo. No, scusa, il senso è chiaro. Okay meno male. Terza. Poi il cavallo di battaglia, Non perdete la concentrazione, perché cioè, è più facile venire qua a raccontare della suocera dell'IKEA. Qui ci sono delle storie. C'è una... sì, caricati tu, devo caricarti io. È sempre la stessa coppia che litiga. No, sempre questi due. Lui chiede: ma cosa devo fare per farti raggiungere l'orgasmo? E lei fa: e non lo so, quando succede non stai mai a casa. No, perché matrimonio infelice, che sì, questo è il matrimonio infelice, manco li conosciamo, chi se ne frega. Questa è bella, piccante, bella. Sì, e poi arriva il cavallo di battaglia finalmente. Ma prendi il tuo tempo, che sennò vedi sta gente qua viene, gli le butti così, se ne va a casa, manco sì, le ricorda. Quella che fa più schifo di tutte, però vabbè, io vi avviso, almeno sapete a cosa andate incontro, va bene. Allora, prima stavo leggendo le impostazioni del cellulare, no? Però era in inglese e c'era scritto setting e ho detto, vabbè, se c'è setting, dopo c'è hotting, noving, dieching, undicing e così via. Se volete vado avanti fino a centing, è una minaccia, è vero che lo faccio. Oggi... Quindi per farmi capire, tu tra queste quattro hai pensato che quest'ultima fosse il cavallo... Sì, la ripeto sempre. E funziona di solito. Sì, e l'altra non la ripeto perché sei sempre la solita. Un po'... Ma posso dirti che secondo me stasera... Se vuoi fare un mini bis, io non ti voglio obbligare. Va bene, dai, la dico. Però tu ti devi convincere proprio. Va bene, dai. Oh, veloce. Va bene. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Beh, aspetta. Avete capito? Oh, nessuno. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Ma? Tranne Pep. Pepsi. Grazie. Va bene. Non male, non male. Hai qualche imitazione, qualche quiz? Per il momento no, volevo raccontare una cosa che ho letto che mi ha fatto abbastanza ridere. L'altra volta volevo condividerla, ma mi è venuto in mente quando sono sceso dal palco, quando il mio turno era finito. Che sfiga. Che sfiga. Cazzo. Sì. Ma meno male che nella vita ci sono le seconde occasioni. Chance, le terze e le quarte. Sto morendo, allora, ragazzi, mi ha ammazzato quello di prima. Allora, stavo leggendo il giornale e ho letto che c'è una commissione del Parlamento europeo per le petizioni e questi geni hanno usato un codice, un'abbreviazione per chiamare questa commissione delle petizioni, che in inglese si chiama petitions e l'hanno chiamata commissione peti, letteralmente peti, l'abbreviazione che in inglese non vuol dire nulla, ma qua li pigliano per il culo tutto il tempo con quel nome, commissione peti. Cioè, io mi sono immaginato questa sala parlamentare piena di gente che scorreggia, che comunica a suon di flatulenze. Commissione Peti, quello mi è venuto in mente. Gente che scorreggia. Cioè, no, una camera a gas è diventato quello. Cioè. È molto bella come storia. Cioè, . Ci mancherebbe solo che in quella commissione lì c'è un tedesco chiamato Strunz, perché dopo il peto viene Strunz. Ragazzi... In effetti c'è un calciatore chiamato così, un tedesco, Strunz, Thomas Strunz. Meno male che non ha mai giocato qua in Italia, altrimenti doveva cambiare cognome, perché veramente... Ma sai che la commissione Peti può diventare commissione Preti? Potresti rifare tutto dal punto di vista di sacerdoti, cioè raccontare la stessa storia. Mi immagino una stanza improvvisa. Il don che va alle giostre cosa fa? Sale sull'altalena e dondola, don dolando. Eh sì, si chiama così. E invece il prete che non si preoccupa mai, Don Worry. Questa devo dire che... Ma... Sì, l'ho copiata da Zelig. Vaffanculo. Più o meno. Cioè, più o meno. Che infami che siete, Davvero, vendereste vostra madre per strappare due risate qua. No, no, sì, qualcuno l'ha fatto anche. Hai altro con cui chiudere? Se... La storia era molto bella. Hai una chiusa? La commissione dei peti. No, basta. A peli, no. Commissione peti, si chiamava veramente così. Io l'ho letto e mi sono scoppiato a ridere, cioè, voglio dire. Scorreggiare anche, no. Scorreggiare. In Africa fa tanto caldo, specialmente nel Sudan. Sudan in Sudan, mamma mia quanto Sudan. Possiamo andare avanti due ore, voi dite parole? Lui ne ha 400. Sì, era troppo bella per non condividerla di nuovo. Ce l'ho già detto la volta scorsa. L'ultima, l'ultima, la più grossa che hai. La cazzata più gigante, va bene. Allora, perché i muratori si mettono il giubbotto antiproiettile quando vanno a fare i lavori di costruzione o di pavimentazione? Perché? Perché? Perché il cemento armato gli spara addosso, esatto, per difendersi dal cemento armato, proprio così. Cioè, tu aveva l'ultimo e tu gliel'hai rovinato a sto momento. Per prenderti una mezza no. Che persona sei? Adesso vai lo meni. No, io sono interattivo, quindi voglio dire, se rispondi mi fa anche un favore. Cioè, io interagisco con il pubblico, capito? Siete i miei ragazzi, è per questo che vi vogliamo tutte le volte qua. Giusto, l'imitazione che mi viene meglio è quella di Berlusconi. Allora, signori, se c'è l'imitazione del Premier, poi davvero... Aspetta, ma minchia, ma un attimo! Non è che io dico Berlusconi e tu parti, senti, scatola, allora scatola, vai, un attimo! Prenditi il tuo tempo! Già in faccia da Berlusconi. Crivio, mi consente, sono Silvio da Ercole! Come state? Allora, tutte le femmine presenti sono invitate a Villa San Martino! Vi faccio diventare orgettine! Ma il testo è tuo o sono proprio parole sue? No, se ci fossero le veline qua sarebbero le exalgine o le exalgette. Ma io ti faccio una domanda e tu non mi rispondi. Tu vai dritto per la tua strada. Cosa mi hai chiesto? Scusa. Dimmi, come hai chiesto? No, niente, non ce la faccio. Mi spaventa anche un po' vederti con questa espressione così. Sì, dopo i 90 lifting che ho fatto per sembrare più giovane. Ma perché io, non... io ho quasi 100 anni, Ho quasi 100 anni, ma ne dimostro 60. Che fatica, ragazzi. Perché non ti prepari con questa voce la barzelletta della mela che sa di culo, che sa di figa? Viene giù tutto. Va bene, adesso la dico. Allora, ah, la sai, cazzo, sì, io non lo so. Ho comprato una mela e ho detto a una persona: questa sa di figa, assaggia. Se la metto vicino alla faccia e puzza. Ah, no, scusa, girala, perché se no sa di culo, capito? La ricordavo diversa. No, il succo, sono vecchio, la morale è quella: come la giri, puzza. Va bene, mi stai davvero spaventando. Io adesso non so neanche. E non è colpa mia, prendi col chirurgo che. Ragazzi, ho i comici che entrano nel personaggio anche. Io entro nelle personaggi. Io, sai, sono Berlusconi, il grande amatore. Ragazzi, poi vabbè, ma qui c'è l'info. Comunque mi hanno assolto dal processo lì. Basta! E la nipote di Mubarak. Vai via, capito? Finiamola. Non riesco a contrastarti, mi stai facendo paura. Per favore. Sono molto spaventato. Sono tornato in me, cosa è successo? Niente, tutto bene. Signore e signori, José Antonio Dante. Grazie. E adesso chiamo, credo, la seconda e altra donna, non riesco più a parlare, non mi va più il cervello, della serata, prima volta qua, e con estremo piacere che annuncio sul palco Marianna Folli. Grazie, ciao. Non so imitare nessuno, mi dispiace tantissimo. Allora, ciao, grazie Faddy per questa presentazione, questo calore, perché... e per il locale che è così familiare, non sono molto abituata a queste situazioni di calore, perché vengo da una famiglia che non mi ha mai fatto alcuna manifestazione d'affetto, siamo un po' così. E quando hanno imposto il distanziamento sociale mia mamma si era emozionata, per farvi capire. E, ti giuro, ci teneva col bastone dei selfie così lontano. E, sì, giuro, pure un'altra volta mio padre... una sola volta mi ha dato una pacca sulla spalla e ho pensato, oddio, una manifestazione d'affetto, ha un tumore, sicuro. Siamo così. Comunque non ce l'ha avuto, quindi potete rilassarvi. Siamo così, siamo gente del nord, siamo gente fredda, veniamo da Brescia. Ci sono bresciani? Ah, se no non avresti detto così, credimi. Brescia è una città famosa per le ondate di Covid e per Fabio Volo, solo che per la prima hanno trovato il vaccino, e ultimamente per Blanco, che adesso si occupa del verde pubblico, questo è. Per essere scientifica io vengo da Idro, qualcuno lo conosce? No, non sapevate dove è Brescia, figurati Idro. Idro è un posto così sconosciuto che Google non ha mappato sul satellite. Cioè, se voi cercate Idro, trovate dei pixel grossi come nei porno giapponesi, uguali. Come posso spiegarvelo? Idro è una specie di area 51 che non si sono mai cacati, manco gli alieni, insomma. È il covo mancato di Messina Denaro, ne ho un'altra. È un paesino di 1800 anime, la metà vagano lì, neanche loro sanno dove è Idro, a causa di un unico turista tedesco che si chiama Alzheimer. A Idro ci sono due cose, casa mia e un Irish pub di fronte. Praticamente sono stata allevata all'Irish pub di Idro. Potevo diventare irlandese, mi sono limitata a diventare alcolizzata. Però io sono cresciuta con il mito di Milano, ve lo assicuro. Milano, wow, chissà come sarà Milano da bere. Quindi quando mi sono trasferita qui, sono subito andata a cercare l'origine di questo modo di dire, no, Milano da bere. È nata negli anni 80. È uno spot della Ramazzotti che dice, questo mi devo preparare, una città che rinasce ogni mattina, pulsa come un cuore. Milano è ottimista, positiva e efficiente. Milano è da vivere, bere, godere, Milano da bere. Spot scritto evidentemente da uno che non beve ma che pippa cocaina come un Dyson progettato da Morgan. La verità è che a Milano, devo dirvelo, bevete poco e male. L'altra sera, no, ero in un locale sui Navigli, una ragazza si appoggia al bancone e fa: senti, mi fai quello di ieri col prosecco, lime, menta, ananas e papaya? Ordina una Macedonia, Cristo, no? Ma perché esistono i cocktail? Cioè, noi bevitori nordici, no, montagnini, e con noi montagnini intendo proprio noi uomini montagnini, cocktail non li concepiamo. Ma perché? Un quarto di questo, un quinto di quello, la matematica è la mia passione, un goccio di quello, il fumo che sale dal bicchiere, poi Harry Potter che shakera, l'alcol è già magico di suo, ve lo assicuro, leva tutto, leva tutto, leva tutto, leva la frutta, le spezie, lascia il bicchiere. No, passa la bottiglia, perché in fondo, ragazzi, la bottiglia è un bicchiere lungo col tappo. È perfetto così, fidatevi. Poi un'altra cosa che ho notato è che l'alcol non lo reggete, lasciatevelo dire. Poi non so se avete notato quanto mi piace generalizzare, comunque se era così. Non lo reggete, vi viene la faccia di Grignani dopo mezza Peroni. E spunta Faddi. Faddi, non è un caso che tu sia spuntato adesso. Cioè, dopo una bevuta prendete Loki, ma la bevuta è Loki. Capite? Siamo... Sì. Siamo fatti così. A casa mia, Idro, sono tutti così, una famiglia di uvariani. Avevamo un cugino astemio, l'ha dato in adozione, poverino. Siamo una generazione che ondeggia, sembra... sempre di essere su Costa Crociere, una meraviglia. Anche mia nonna, la mia cara nonna Ida, che quando è morta ha chiesto di farsi barricare, la cara nonna Ida mi ha cresciuta con due consigli. Il primo: ci si può ubriacare anche senza divertirsi. E il secondo: non guidare troppo che devi bere. Quindi questa serata la dedico un po' alla cara nonna Ida. Addio, l'alcol ha anche i suoi difetti, per carità, ad esempio noi non ci ricordiamo mai un cazzo, a casa mia nessuno si ricorda mezza trama di niente, i miei stanno ancora guardando Lost, non capiscono una minchia e quindi ogni volta ripartono dal check-in. Oppure mio padre una volta all'anno si concede di guardare Titanic e davvero non sa se DiCaprio ce la farà. Tutti così, cronicamente smemorati. A Natale ci presentiamo sempre a vicenda con i cugini. Ciao, ciao Marianna, piacere, sei Sergio? No, tu? No, Marianna. Ok, tu sei Sergio? No, non sono Sergio. E ci sarà un Sergio, cazzo? Tutti i Natali. Si va avanti così. Mi piace parlare di questo perché stasera è la prima volta dopo tantissimo tempo che mi bevo una birra, da parecchi mesi, perché il medico me l'ha assolutamente vietato. Non amo parlare della mia vita privata, però molti amici lo sanno. L'anno scorso io ho avuto un grosso problema di salute. Non mi sentivo bene, allora non voglio rabbuiare la serata, sarò breve, non mi sentivo bene, ho fatto dei controlli, solo dopo ho capito che questa cosa poteva essere risolta inizialmente con una pastiglia, ma poi si è espansa. Insomma, alla fine il medico mi ha detto che avevo una bambina nell'utero. Sono felicissima che sia nata, Sia chiaro, è stato un momento meraviglioso, anche perché la vita è un miracolo, no? Cioè, io mi sono chiesta in questi mesi, ma quante possibilità c'erano che tra 4 milioni di spermatozoi questa piccolina li superasse tutti, arrivasse prima e bucasse il preservativo? L'abbiamo chiamata Alba. Vi piace come nome? Sì, bene. È l'ora in cui smette di piangere. E da quando il mio compagno è papà ha questa faccia, come se stesse covando dei ricci nell'ano, uguale. È invecchiato tanto, cioè ha preso 15 anni in 3 mesi, pazzesco. Eravamo ieri, insomma, eravamo in giro e una signora di 70 anni gli ha ceduto il posto, gli ha detto: tenga, prenda la mia carrozzina, e lui l'ha presa. Capite? È incredibile come un padre sia indispensabile e di troppo nello stesso momento. Il mio compagno non lo chiamo più Paolo, lo chiamo direttamente voi maschi. Tutto attaccato, sembra un cognome russo. Voi maschi, Voi maschi, corri! E lui corre, muto. Siamo nella fase Django in cui lo schiavizzo di un male. Allora, gli lascio un'ora libera al giorno in cui può uscire. Per andare in farmacia, ovviamente, dove cazzo vuoi che vada. Apro la porta e gli dico... Corri, voi maschi, corri, sei libero! E lui corre, galoppa come certi labrador, infinite praterie, la lingua fuori, gli occhi sgranati dalla gioia. Corri, voi maschi, corri, tanto qui devi tornare. Bisogna fargli fare un bel percorso preciso per ridurli così. Bisogna iniziare sin dai primi mesi di gravidanza. Perché se il maschio non me lo educhi quando è ancora figlio e non padre, non me lo raddrizzi più, ve lo assicuro. Allora. Innanzitutto i comandi, come il Sitz e il Platz per i pastori tedeschi, che sono il levati e dove cazzo sei? Voce decisa, tono alto, non cattiva. Non cattiva quello mai, però devono capire che non è uno scherzo. Perché lo sappiamo i maschi come fanno, che sono dei coglioni, senza offesa, paddle, figa, PlayStation, quelle robe lì. No, voi, voce decisa. Dove cazzo sei? Eccomi, levati! Dove cazzo sei? Eccomi, levati! Dove cazzo sei? Levati sono gli estremi del collare che voi gli state mettendo. E so che lo state pensando, siamo una bellissima coppia io e Paolo. Siamo molto innamorati anche perché tutto è nato da un colpo di fulmine. Ci siamo guardati la prima volta e ci siamo detti, senti, tu stai aspettando l'anima gemella, io pure, tanto vale che l'aspettiamo insieme, no? Sembro dura, però non vi ho detto un particolare. Paolo è astemio. Quando l'ho detto a mio padre, fidati, è stato un trauma. Gli ho detto, papà, io ti devo dire una cosa orribile. E mio padre, DiCaprio muore, vero? Grazie. C'è un buco di scena. Sto mangiando un tarallo, davvero, mi devo riprendere dal momento di prima. Abbiamo molta fatica, scusate. Taralli senza liquidi non è una bella cosa da mandare giù. Qui ci dovrebbe essere un altro bellissimo momento, ma purtroppo non vedo il compare dell'altro compare. Tu vorresti andare a segnalare al compare così poi vi posso chiamare? Tanto faccio un altro, allora vai ad allertare il compare. Allora signore, andiamo avanti, siamo addirittura d'arrivo, ne mancano più o meno tra i tre... E i quattro, tutto sommato, è una serata che sta andando a gonfie vele prima che io arrivassi sul palco a masticare davanti a voi. Ne ho ancora un pochino nei denti ed è sta diventando difficilissimo parlare, ma lo vedo arrivare. Ragazzo, te la senti? Ragazzo, tu con la felpa. Buonanotte, uno più rincoglionito dell'altro li abbiamo. Beh, ma guarda che bel momento. No, poi ho detto rincoglionito, ragazzo con la felpa, sei arrivato tu. No, non parlavo, sai che stranamente non parlavo di te, te lo giuro. Sì, ma poi non ti ho chiamato prima rincoglionito, è tutta una questione. Ma che bello, vuoi annunciarti tu? Federico Comella, giusto? Buonasera. Io sono Federico Comella, sono di Milano. Bene, ora che sapete tutto di me, per alzata di mano... Chi conosce l'effetto farfalla? L'effetto farfalla non è quello stato confusionale che per noi uomini inizia intorno ai 14 anni e solitamente finisce intorno. Parlo di quella teoria per cui un battito d'ali di farfalla a Tokyo può provocare un uragano a Bitonto. Infatti non tutti sanno che 2 settimane fa c'è stato un uragano a Bitonto. Greta Thunberg ha twittato che è a causa del surriscaldamento globale. Qualcuno per favore avvisi Greta Thunberg che la colpa è tutta di quella cazzo di farfalla a Tokyo. Poi ognuno può pensarla come vuole, sia stato il surriscaldamento globale, sia stato l'effetto farfalla, comunque sia Bitonto ne è uscita migliorata. Ovviamente sto scherzando, non ho nulla contro gli abitanti di Bitonto, anzi ho un sacco di amici che spacciano. Ma torniamo all'effetto farfalla. Siamo d'accordo sia una teoria molto affascinante e sia ingiusto incolpare un insetto così piccolo. Ma se il battito d'ali di farfalla può provocare un uragano, cosa dobbiamo aspettarci dalla scoreggia di una mucca, dal grugnito di un maiale, da un concerto a San Siro di Sfera Ebbasta? È molto più facile accettare che tutta questa distruzione sia stata causata da un grosso animale, e ovviamente sto parlando di Sfera Ebbasta, rispetto che da un insetto che passa tutta la vita chiuso in casa e non appena esce muore. Praticamente le farfalle sono gli hikikomori del mondo animale. Hikikomori è un termine nato in Giappone per descrivere tutte quelle persone che a causa dell'ansia sociale non escono mai di casa. Ma grazie al cazzo che l'ansia sociale si vive in Giappone. Anch'io non uscirei mai di casa se fossi in Giappone. Ce l'avete presente in Giappone? In Giappone i manager, quando sbagliano, praticano il suicidio rituale come i samurai. Le persone vivono in case talmente piccole che il lavandino lo usano prima per fare la pasta e poi per fare il bidet. No, sto scherzando, in Giappone non fanno la pasta. Hanno fantasie sessuali sui polipi. E poi c'è sta cosa che in giro per Tokyo è pieno di ste cazzo di farfalle che sbattono le ali. Comunque, a parte gli scherzi, quella del battito d'ali in realtà è la semplificazione di un concetto matematico che dice piccole variazioni iniziali possono generare grandi trasformazioni nella struttura finale di un sistema. Chiaro? Beh, ripeto, piccole variazioni, grandi mutamenti. Farfalla a Tokyo, uragano a Bitonto. Da non confondere con la superstizione. Non è che se tu la sera davanti alla televisione guardando la Champions League gridi segna, segna, e quello fa gol, e il gol è merito tuo. Quello è merito di un colibrì che è starnutito in Massachusetts. Che poi io me li immagino questi animali, me la vedo sta farfalla. Quanto cazzo deve sentirsi gasata? Quanto si sentirà importante se ne andrà in giro per Tokyo flexando? Oh raga, io se sbatto le ali causo gli uragani. E lì a fianco c'è un pipistrello cinese che la guarda dall'alto in basso e gli dice: ehi sorella, stai a guardare. Comunque, a parte le cazzate, quella del battito d'ali in realtà si chiama teoria del caos, ve la ricordate? È quella che sosteneva lo scienziato Rock and Roll in Jurassic Park. Che poi, a proposito di dinosauri, ma se la plastica deriva dal petrolio e il petrolio deriva dai fossili di dinosauro, tecnicamente i dinosauri giocattolo sono fatti da dinosauri veri. Vabbè, questa era una cazzata. Cazzate a parte, però. È incredibile pensare come delle azioni così piccole possono influire così tanto su ciò che accade dall'altra parte del mondo. Io infatti uso spesso la cosa a mio vantaggio. Quando mi gratto i coglioni e la mia ragazza mi dice «Dai», io le rispondo «Eh no, signorina, guarda che io sto risolvendo la questione israelo-palestinese». Anzi, ci sarebbe bisogno di un aiuto internazionale. Non è che vuoi succhiarmelo. Comunque, pensate se l'effetto farfalla fosse davvero reale, se i matematici avessero ragione. A questo punto che ne sappiamo, magari l'unico modo per aiutare i bambini in Africa non è fare una donazione, ma farsi le pippe. Cosa che se fosse vera significherebbe che io da solo ho salvato il Botswana. E pensate quanto sarebbe bello se invece l'unico modo per aiutare i bambini in Africa fosse mettere i like alle fighe su Instagram. Cosa che se fosse vera, beh, farei meglio a tornare a ciò che so fare meglio. Le pippe. Anche perché alla fine questo pezzo non è neanche merito mio. È stata solo una farfalla. Grazie. Andrea Fadenti. Grazie, così si ricorderanno il mio nome e penseranno che bella serata che ha condotto. Prego, Federico Comella, grande. Ne abbiamo ancora due e un altro momento bellissimo. È il momento bellissimo, quindi non riesco più a parlare, davvero. Scusate, ero in forma, inizio serata, sto mollando il colpo. Ci sono, li vedo. Signore e signori, chiamo sul palco e me ne vado. Tanto vorrei farvi notare che sono vestito come Romualdo. Quindi vi parlerò del pezzo di Federica Cazzi. No, in realtà. Bentornati alla Storia siamo noi. È il novembre 1989. In Europa si respira un'area di grandi sconvolgimenti, un'area di rivoluzione, un'area viziata. Il presidente dell'Unione Sovietica, Michael Gorbaciov, ha intrapreso da qualche anno un processo di rinnovamento, noto con il nome di Perestroika, che molti non hanno ancora capito. e vista l'assonanza con Balalaika, continuano a scambiarla per una danza locale. Ma nel novembre 1989 si sarebbe compiuto il primo tangibile passo verso l'Europa unita, la caduta del muro di Berlino. Wolfgang Fischer è un tedesco di Berlino, fiero delle tradizioni teutoniche. Ama i Brezen, la musica di Falco, Der Kommissar, e come ogni tedesco non rinuncia all'eleganza. Nato nei primi anni 50, Wolfgang è un tipo passionale. Grafen! E capisce molto presto di essere destinato a fare l'attore. Ricordatevi questo particolare perché la televisione entrerà per sempre nella vita di Fischer. A 16 anni ha una parte come il figlio scemo di un gerarca nazista. Celebre la sua frase. Basta babbo, mi stai riempendo di cenere, basta fumare! A 26 anni interpreta in una vincente serie poliziesca tedesca un pericoloso pluriricercato braccato dalle teste di cuoio. Confesso, comandante, sono io il maniaco delle soste vietate. A 36 anni fa un provino per il commissario Rex, ma lui viene preferito il cane. Cane di merda. Nel frattempo raccoglie un'innumerevole serie di partecipazioni come attore non protagonista in film a sfondo erotico. Schweinsteiger! Messo da parte un bel gruzzoletto, Wolfgang decide finalmente di fare l'investimento della sua vita. Acquista una casa. Ricordatevi questo dettaglio perché ad ogni uccello suo nido è bello. Dopo averne visitate decine, un ex bordello nazista, un ex prigione nazista, un ex bunker nazista, che però aveva il pregio di avere una salma bruciata di Hitler al posto dello zerbino, ormai disilluso e sfiduciato, Wolfgang fissa un appuntamento per vedere un trilocale in Lissenstrasse. Appena entrato nell'appartamento, Wolfgang prova una sensazione unica che lo spinge a guardare negli occhi il suo agente immobiliare di origini italiane, Vito Immobile, e pronunciare la fatidica frase. È questa! Vito, riconoscendo in Wolfgang le qualità del figlio scemo del gerarca nazista che aveva interpretato qualche anno prima, non si lascia perdere l'occasione di vendere quell'appartamento abusivo costruito su terreni stracolmi di amianto. Ma Wolfgang di quella casa è attratto soprattutto da una cosa. Il muro che circonda il bagno. Quel muro solido e resistente anche al grave problema di aerofagia di cui soffre Wolfgang fin dalla nascita. Wolfgang compra il suo nuovo nido il 7 novembre 1989. Ricordatevi questa data perché segnerà la svolta nella vita di Wolfgang. E il 9 sera, mentre è seduto sulla tazza del bagno, nell'intento di liberare l'aria dello stomaco, sente dei ticchettii. Crede che sia qualcuno che sta scendendo le scale, ma il rumore si fa sempre più forte, quasi assordante. Wolfgang grida nel suo bagno, ma in quel momento sente un primo scossone, poi un altro, e il muro, quel muro destinato a durare per sempre, si sgretola davanti a lui, proprio mentre Wolfgang libera un peto di magnitudo 5.8. Ripreso dalle telecamere di tutto il mondo, Wolfgang si trova davanti ad una folla festante che lo invita a ballare. Wolfgang, seduto sulla tazza, fa un cenno di saluto imbarazzato e pensa: volete tirarmi giù la porta? Sono ateo, testimoni di Geova del cazzo! Ho sbagliato, eh? Alberto Vitale! Valerio, no! Ne mancano due. Uno non l'abbiamo mai visto e l'altro è un matto vero, quindi teniamo... Ma andiamo a fare un pezzo anche con te, Vitale. Eh? Ma l'ha fatto prima con me, tu lo cedi. Va bene, andiamo avanti! Che fatica a presentare. Dove sei stato? A chiacchierare. Con chi? Ma c'è gente. Sai che non so più cosa risponderti. Va bene così. Adesso abbiamo un ragazzo che ha un nome particolare. È di colore? No. No. No. No. Perché hai dovuto specificare? Cara? No, ha detto magari c'era di colore, avvisavamo la gente, c'era qualche razzista. L'Exalge è pieno di razzisti. Perché, scusami, dovremmo avvisare la gente che c'è un comico eventualmente di colore? No, così il razzista lo sa e ha tempo di andarsene prima di vederlo. Ma tu pensi che stavo chiamando il nostro pubblico, pensa te, il nostro, c'è qualche razzista secondo te qua? Quella faccia lì, quello con gli occhiali, guarda! Ma chi? Il bastardo. Lui con la sciarpa? Guardalo! Lui ti risponde, vedi? Ti fa un culo così lui, amico mio. Ha smentito? No, ha detto da cosa l'hai dedotto. Beh, cazzo, onestamente, cioè, guardatelo tutti bene. Ma perché deve essere razzista questo ragazzo? Per quale motivo? Non ha niente del razzismo. Non ha l'occhio quello destro, cioè il suo sinistro, un po' stronzo. Ma forse sta guardando male solo te, non ci hai mai pensato? Poteva essere o quella o che era razzista. E sai che io propendo più per la seconda? Dici? Vuoi un mazzo di spaghetti? Ne prendo uno. E cosa ci fai con uno, curiosità? Vabbè, te cosa ce ne fai con sette? Anche questa è una domanda sensata. Ecco. Chiamiamo il penultimo comico? Chi è? Non hai idea, non ne hai idea tu, vero? Non lo so. Sai che giorno è oggi? È giovedì. Data? 27. Data 26 cosa? È il 16. Lascia stare. Ma dove sei stato? Ragazzi, che fatica fare ste serate qua. Va bene, prima volta qua, ha un nome che o è tipo Roberto Davide o Davide Roberti o qualcosa del genere. Ah, quindi... grandissimo Davide Roberti! E allora, grande! Me l'ha detto l'altra volta e si esibiva, grande! E tu te lo sei dimenticato, Davide Roberti! Vai! Un applauso a loro che... buonasera, con questo entusiasmo volevo cominciare con una domanda. Volevo sapere quante persone oggi sono andate a fare la spesa al supermercato. Dai, su, senza essere timidi, avete fatto tutti la spesa al supermercato oggi? Solo tu? Vabbè, grazie. Io mi chiamo Davide Roberti, faccio il cassiere del supermercato e odio tutti voi clienti rincoglioniti. Sì, perché prima o poi a tutti capita di esserlo. Rincoglioniti o clienti, decidete voi. Odio le mamme con i figli che giocano al western tra le corsie e loro che se ne sbattono le palle. Odio gli anziani che parlano un pochettino più piano, ma il "mi scusi signore" non se lo leveranno mai di bocca. Odio quelli che fanno la radiocronaca della spesa. Ho preso i tortelli, ora vado ai biscotti. O mi inviti a cena o fai la spesa per i cazzi tuoi. Odio l'ultimo cliente, che notoriamente è il più pirra di tutti, e per ripagare il suo ritardo ti vuole dare i centesimini. Che siamo chiusi da 25 minuti, i centesimini sai già dove ti li puoi infilare. Odio quello che dice "tanto prendo solo una cosa" e poi fa la spesa di Natale a febbraio. Sei ritardato tu quanto i tuoi festeggiamenti. E poi odio i chihuahua nella borsetta, i tickets, gli annunci pubblicitari e le vecchie con la fascia marrone stile cancello. Ma soprattutto odio me stesso, perché da giovane sognavo di seguire le orme di Gandhi e la sua non violenza, che poi se Gandhi avesse fatto il cassiere, un paio di calci nel culo gliel'avrebbe tirati anche lui. Grazie. Ah, quanti sono clienti? Quanti si- no, no, non è finito. Dammi 3 minuti, ma porca puttana. Anche 10, ma hai ringraziato. Ho fatto 11 ore di cazzo. Non mi sembrava vero. Io ho aspettato 3 ore. Hai ringraziato, hai fatto un gesto. Grazie, no, no, grazie anche per gli spaghetti, mi hai fatto sentire a casa. Quanti sono clienti, per alzata di mano, quanti si sentono clienti nella vita? Dai, su. Che cazzo, siamo tutti clienti nella vita, in una società consumistica siamo tutti clienti, no? Il cliente, che brutta razza. Consumare, consumare sempre è l'unico suo mantra. Essere col corpo di uomo e la testa da cestino della spesa. Al posto della lingua uno scontrino infinito. La trasformazione della persona in cliente avviene appena messo piede nel negozio. Sì, questa cosa io non l'ho mai capita. Perché finché stanno fuori, li vedi belli scattanti, arzilli, capiscono, fanno jogging, ridono, si divertono, poi inspiegabilmente mettono piede nel negozio e i volti si deformano, i corpi si incurvano, i denti si allungano, diventano incapaci di capire anche l'informazione più elementare. Scusi, e il carrello? Mi fanno con un tono indescrivibile, come se li avessi voluto nascondere io per dispetto. Guardi, ce ne sono 140 contati e sono esattamente di fianco a lei. Che sbadato mi fanno, oggi non ne imbrocco una. Oggi sì, come tutti i santi giorni, da qui all'eternità, nei secoli dei secoli. Amen. Non siete andati in chiesa. Camminano lenti tra le corsie, passano decine di volte davanti agli stessi cazzo di scaffali, poi a un certo punto si fermano, guardano la lista titubanti, si grattano la testa come una comica di staglio e olio e poi ripartono per un altro giro. Il sesso, il gran premio dei rincoglioniti. Richieste strane in questi anni ce ne sono state tante, come quella signora, era il 1° maggio di qualche anno fa, che mi chiese, scusi, avete dei grissini un po' simpatici? Non ho mai capito che cazzo volesse dire. Pure quel signore che desiderava ardentemente i Choc Pops. Ora siamo abbastanza tanti qui questa sera e volevo sapere se mai una volta nella vostra vita vi è mai capitato di mangiare, assaggiare, comprare, chiedere dei Choc Pops. Che cosa sono secondo voi i Choc Pops? Domanda libera, ognuno può rispondere quel cazzo che vuole. Cosa sono secondo voi i Choc Pops? Dai. Cereali. Oh, ogni volta rispondete i cereali, gliel'ho detto subito, sono i cereali, signore, mi hanno dato a cagare. Non erano i cereali. Cosa sono i Choc Pops secondo voi? Dai, su, un po' di fantasia. Caramelle, no, niente, caramelle, non erano caramelle. Lecca, lecca, no, Choc Pops, cosa potrebbero... Popcorn, no, neanche popcorn. Dopo un summit durato 4 ore, abbiamo chiamato anche i negozi vicini, abbiamo capito finalmente cosa cazzo fossero i Choc Pops. Grazie per il ritardo, ma non erano neanche quelle. Erano i Pocket Coffee. Un applauso a quel signore che... Un applauso. Altri clienti, poi li vedi fissi davanti alla parete dell'acqua minerale in adorazione. Poi dopo 47 minuti per sbaglio incrociano il mio sguardo in cassa e mi fanno scusi, stavo cercando la bottiglia col sapore migliore. È acqua, porca puttana, che cazzo di sapore stai cercando? Niente da fare, siamo aperti dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 12 ore al giorno, 7 giorni a settimana, domeniche incluse ovviamente. Ogni tanto mando una mail alla mia famiglia per dirgli che sono ancora vivo. Ma il cliente non è soddisfatto, no. Riuscirà comunque a bussare sulle enormi porti scorrevoli del negozio alle 8-30 secondi col fare di persona molto indaffarata e dirà ma chiudete di già. Che cazzo gli rispondi a uno così? Chiudo questa piccola parentesi e questo piccolo discorso sui clienti con quella signora che venne il 23 aprile di 3 anni fa, quella volta che mai l'avessimo fatto a Pasquetta, la sede decise di fare solo la mattina. Il giorno dopo arrivò lei e disse: comunque volevo dirle una cosa. Buongiorno? No, ma che buongiorno? Volevo dirle che dal cartello fuori delle chiusure non si capisce nulla. Dovreste essere più chiari. A Pasqua eravamo chiusi. Sì, ma a Pasquetta? A Pasquetta abbiamo fatto solo la mattina. Ecco, faccia sapere che non si capisce. Guardi, chiamerò immediatamente il grafico dell'azienda per informarlo di stare un po' più attento la prossima volta, ma posso permettermi io di dirle una cosa? Spero che questa volta la capisca. Prego. Aspetta. Vai a cagare! In realtà ovviamente non gliel'ho detto, l'ho salutata caramente ringraziandola, perché come si sa il cliente ha sempre ragione e la ragione si sa si dà ai fessi e ai clienti rincoglioniti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, riprendo gli spaghetti. Non so dove siamo finiti, Davide Roberti, giusto? Davide Roberti, sì. Davide Roberti, che bel nome Davide. Domani in cassa mi trovate. Dove ti troviamo se vogliamo venire? Milano 2 di fianco al San Raffaele, potete sia star male che fare la spesa. Se fate la spesa poi state cazzo, male. Ma domani i si clienti sono così a si Milano sta 2. Male, si fa la spesa e si ride con lui. Una bellissima porca mattinata. Abbiamo l'ultimo, il più matto, l'abbiamo tenuto alla fine. Guardatelo. Sei carico? No. Perfetto. Questo è lo spirito che voglio sempre dai miei ragazzi. Tutti selezionati da Valerio Airò, che è un po' il direttore artistico di questa serata. Quindi è con grande piacere che chiamo sul palco Emanuele Laghi. Intanto Airò è fuori a fumare, tipo. Bene, siamo arrivati alla fine. Allora, tra l'altro è appena stato San Valentino. E ho scoperto una cosa fighissima su San Valentino, che i Baci Perugina, il packaging dei Baci Perugina è stato fatto da un designer del ventennio. un designer del ventennio, cioè un certo Seneca, che ha preso un'immagine lì dal quadro famoso di Aes del bacio e la frasettina. Quindi si può dire finalmente che i fascisti hanno fatto anche cose buone, no? Ma a proposito di questo, a proposito del fascismo, vabbè, allora, io in realtà oggi volevo scrivere un pezzo nuovo, però l'alternativa era scrivere un pezzo nuovo o scopare, e quindi ovviamente non ho fatto nessuna delle due cose. Non è vero. No, invece quindi farò un pezzo che ho già fatto, però che cazzo ve ne frega, tanto non ve lo ricorderete perché sareste stati ubriachi, e io mi sto chiedendo, o forse io sarò stato ubriaco, io vi voglio chiedere, chi pensa che Giorgia Meloni sia fascista? Ecco, secondo me voi sbagliate. Giorgia Meloni non è fascista. Ha un sacco di amici fascisti. È come quelle ragazze etero che sono piene di amici gay, che si chiamano? Le frociarole, no? Secondo me Giorgia Meloni è una fascistarola. Ha un sacco di amici gay, di amici fascisti, ci parla, insomma, diciamo, li capisce. Anche lei lo ha sperimentato, però sono quelle cose che si fanno in gioventù. Dice, sì, beh, quando sono stata giovane un po' ho sperimentato, ma poi ha capito che non era il suo. Comprende i suoi amici, li sostiene, ma non va a dire in giro che sono fascisti, perché sa che sono loro da soli a dover uscire dal loro nostalgico armadio. Quando Giorgia Meloni dice che nella grande famiglia di Fratelli d'Italia non ci sono fascisti, mi ricorda un po' mia mamma quando dice che mio zio Claudio vive con il suo amico e che i bambini che hanno li hanno comprati in America, perché si sa che i bambini si possono comprare in America, ci sono i negozi dei bambini e quelli delle armi, a volte te li vendono assieme così sono pronti per andare a scuola. Ecco, io veramente penso a questa cosa, che è giunto il momento di aprirsi e di fare un gesto di apertura, di andare incontro a queste persone che si sentono discriminate perché amano un uomo, che il loro amore è punito per la legge, anche se poi non gli fanno un cazzo. E quindi io penso che sia il momento di passare da LGBTQ+ a LGBTQ+F. F di fascisti. E unirli nella grande famiglia queer. Amano un uomo e sono discriminati. Non lo possono dire in giro. Quando qualcuno viene detto, fa un qualche cosa di fascista, dice che è fascista, poi glielo richiedono e dicono, no, io fascista, ma cosa dici mai? Non lo possono dire in giro. Cioè, il nostro presidente del Senato non può dire che c'è un busto di Mussolini a casa, che tra l'altro è anche un ricordo. Cioè, ma non è giusto, queste persone si sentono discriminate, noi abbiamo il Gay Pride, loro non possono andare a Predappio, bisogna cercare di unire, bisogna andare incontro con l'amore, anche loro amano un uomo, no? E allora smettiamo di discriminarli e organizziamo un bel Gay Pride tutti assieme. Io me lo immagino, no? Tra l'altro io copierei subito lo stile vestiario, camicia nera, elegante, anche perché tutte le volte che vado al Gay Pride mi devono vestire come un albero di Natale cinese non è proprio il massimo. Mettiamo il carro dei fascisti vicino a quelli dei sadomasochisti, così loro picchiano i gay, sono contenti, i gay si fanno picchiare dai fascisti e sono contenti, e poi magari nasce anche l'amore, perché, cazzo, ma li avete visti i raduni? O le palestre fasciste con tutti quei bei simboli. Secondo me nelle docce non si alzano solo i bracci. E ho già in mente un gadget meraviglioso per suggellare questo amore. Un bel vibratore a forma di testa di Mussolini. con quelle belle venazze che sembra proprio un cazzo in tiro. È perfetto per i fascisti, perché... Ah, sì, ti prego, dai, sottomettimi come hai fatto con la democrazia! Ma è perfetto anche per gli antifascisti. Sì, a me i fascisti mi stanno in culo, mangia la mia merda, Duce! Ah! E se per caso un antifascista in questo modo avrà un orgasmo, finalmente dovrà ammettere che il fascismo ha fatto anche cose buone! E avete applaudito alla frase «Anche il fascismo ha fatto cose buone» qui all'Ex Alge! E io sono fiero di questa cosa! Ora, prima di salutarvi, io per la par condicio dovrei dire qualcosa anche verso la sinistra. Che so, potrei dire che Letta non è comunista, ma ha un sacco di amici comunisti. Ma lo sanno tutti che Letta non ha amici. Grazie a tutti. Io sono Emanuele Laghi. Vi aspetto su Instagram per un bel cuoricione, su Facebook per un bel pollicione, nel bagno per un bel soffocone o anche qui dietro, dove vuoi, quando vuoi, come lo vuoi. Ciao, Andrea Fadenti. Emanuele Laghi da domani alle feste di Casa Pound con il suo monologo di un'ora. Come tu sali per i saluti. Ma tu arrivi, sì, all'inizio e alla fine. Già che siamo qua. Tanto sai che all'inizio era uguale con un bicchiere di vino rosso, più o meno a quell'altezza, o è lo stesso di prima? Cosa hai fatto? Bevo molto lentamente. Beh, sei riuscito a fare il tuo anche stasera. Ma sì, dai, alla fine la vita cos'è se non presentarsi alle serate, bere, chiacchierare e stare bene insieme, ragazzi. Quando tornate a casa stasera, date un bacio ai vostri bambini. È il bacio di Valeria Irò. Buonanotte a tutti. Ci vediamo forse tra 15 giorni.